Benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo nel mondo un po' nascosto, diciamo, del lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale. Useremo l'industria dei data center in Islanda come caso di studio e la nostra guida sarà il libro Feeding the Machine. Preparatevi a scoprire fatti sorprendenti e spunti di riflessione. Sapevate, ad esempio, che i data center consumano una quantità enorme di energia, paragonabile a quella di interi paesi, e che la corsa a dominio dell'IA sta creando una competizione per le risorse e un nuovo tipo di tensione geopolitica. Esploreremo tutto questo e ci addentreremo anche nelle questioni etiche sul lavoro nei data center. È affascinante come spesso pensiamo all'IA come una forza quasi magica, ma è fondamentale ricordare che si basa su un'infrastruttura fisica reale e su persone come noi. Esattissimo. E una di queste persone è Einar, un responsabile di un data center in Islanda. La sua storia ci aiuta a dare un volto umano a questo mondo di server e algoritmi. Immaginate, un data center all'avanguardia in Islanda, un alveare di attività con lo sfondo della straordinaria bellezza naturale dell'Islanda. Feeding the Machine ci racconta che Aina lavora sotto pressione per rispettare le scadenze e le aspettative dei clienti, gestire sistemi complessi e adattarsi alle continue evoluzioni del settore. Un'immagine potente che ci fa riflettere sulle sfide quotidiane di chi lavora in questo settore. E non è il solo. L'Islanda è diventata un punto di riferimento globale per i data center? Beh, ha ragione. Pensate, abbondanza di energia rinnovabile, un clima freddo perfetto per i server e un ambiente politicamente stabile. E poi una forza lavoro altamente qualificata. E strategie di marketing incredibilmente efficaci. Stanno davvero sfruttando al massimo l'immagine del paese come casa naturale per i data center. Ma Feeding the Machine solleva anche dubbi sulla sostenibilità di questo modello. Il libro cita uno studio che rivela come i data center consumino circa il 3% dell'elettricità mondiale, una cifra enorme che getta un'ombra sulla strategia energetica irlandese. È una narrazione interessante, ma solleva anche importanti interrogativi sull'impatto ambientale di queste strutture. Sì. I data center sono energivori e il loro raffreddamento è una sfida importante, soprattutto in un mondo che si sta riscaldando. Vero. E anche se il clima freddo dell'Islanda aiuta, non possiamo ignorare il consumo di acqua, specialmente se consideriamo casi come i data center di Google in Oregon e Uruguay, che hanno suscitato polemiche proprio per il loro consumo idrico. Esatto, e poi c'è la questione del passaggio dell'Islanda dal mining di criptovalute all'intelligenza artificiale. Sembra un passo positivo, ma ci si chiede, stiamo davvero riducendo il consumo di energia o semplicemente cambiando l'applicazione? Ok, allarghiamo un po' la prospettiva. Ogni volta che inviamo un'email, guardiamo un video o usiamo i social media, stiamo attingendo a questa rete globale di data center collegati da cavi in fibra ottica sottomarini. È un'opera di ingegneria straordinaria, con una storia profondamente intrecciata al colonialismo, al commercio globale e persino alla guerra. Feeding the Machine dedica un intero capitolo a questo, spiegando come i percorsi di questi cavi spesso rispecchiano le rotte commerciali storiche e le reti coloniali. Ecco dove le cose si fanno davvero interessanti. Questa corrispondenza mette in evidenza come la tecnologia abbia spesso seguito le orme del potere e dello sfruttamento. Vero. Ci ricorda che la tecnologia non è mai neutrale, è plasmata dalle forze sociali, politiche ed economiche del suo tempo. Parliamo ora dell'ascesa degli hyperscaler e del cloud computing. Questi enormi data center gestiti da aziende come Amazon, Microsoft, Google e Meta hanno completamente trasformato il panorama tecnologico. Hanno un vantaggio strategico perché controllano l'infrastruttura critica che alimenta il mondo digitale. E non si limitano a fornire spazio di archiviazione, ma sfruttano tecnologie avanzate come la containerizzazione e il serverless computing per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi. È come se fossero i proprietari di internet e noi fossimo solo degli affittuari. In un certo senso sì. E questo dominio solleva preoccupazioni in merito alla concorrenza e all'accesso allo sviluppo dell'IA per gli attori più piccoli. Se l'IA sta diventando una utility, chi ne controlla l'accesso? Feeding the Machine esplora a fondo questo concetto, analizzando il potere di queste aziende. Ottimo punto. E a proposito di accesso, non possiamo ignorare la competizione globale per il dominio dell'IA, soprattutto tra Stati Uniti e Cina. Giusto. Questa competizione va ben oltre il software e gli algoritmi. Si tratta di controllo sulle risorse, dai minerali critici utilizzati nel hardware dell'IA all'attrazione dei migliori talenti del È settore. una corsa al controllo del futuro della tecnologia. Esattamente. E la posta in gioco è alta. Ci sono già preoccupazioni per potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento dei minerali chiave. E mosse come il divieto di esportazione degli Stati Uniti di chip avanzati per l'IA verso la Cina stanno alzando la tensione. Sì, e non sono coinvolti solo i governi. Le grandi aziende tecnologiche stanno esercitando un'influenza crescente sulla politica governativa in materia di IA, il che solleva questioni cruciali in merito alla responsabilità e al bene pubblico. Chi sta realmente stabilendo l'agenda per lo sviluppo dell'IA e a chi giovano? Ed è qui che si ritorna all'elemento umano e alle condizioni di lavoro nei data center di tutto il mondo. Assistiamo a una crescente dipendenza da lavoratori temporanei, fornitori e a contratto, creando un sistema di impiego a due livelli all'interno dell'industria tecnologica. Un esempio lampante è la forte dipendenza di Google dai lavoratori TVC, temporanei, fornitori e a contratto, nei suoi data center. Sebbene questi lavori possano sembrare un passo avanti rispetto ad altre forme di lavoro digitale, il potenziale di sfruttamento e di insicurezza è ancora una delle principali preoccupazioni evidenziate da Feeding the Machine. Feeding the Machine fa luce su questo aspetto, evidenziando come questa disparità nel trattamento dei lavoratori possa limitare l'innovazione e l'opportunità per coloro che sono esclusi dalla forza lavoro tecnologica tradizionale. Giusto, la diversità di pensiero ed esperienza è fondamentale per un progresso tecnologico significativo. A proposito di progresso, torniamo un attimo indietro e ripensiamo all'impatto ambientale di tutto questo. Abbiamo parlato del consumo di energia, dell'utilizzo dell'acqua e delle sfide legate al raffreddamento di queste enormi strutture. Eh sì, e diventerà sempre più impegnativo, man mano che i modelli di IA diventano più grandi e complessi, richiedendo ancora più potenza di calcolo. Esattamente. Quindi, quali sono le possibili soluzioni? Esistono modi per rendere i data center più sostenibili, senza ostacolare l'innovazione? Questa è la domanda da $1 milione, vero? Ci sono alcune strade promettenti che vengono esplorate, come l'utilizzo di hardware a maggiore efficienza energetica, la progettazione di data center che utilizzano metodi di raffreddamento naturali e persino l'esplorazione dell'uso di fonti di energia rinnovabile, come l'energia geotermica e solare. Sembra che serva un approccio su più fronti, che coinvolga la collaborazione tra governi, aziende tecnologiche e ricercatori. Assolutamente. E non si tratta solo di soluzioni tecnologiche. Dobbiamo ripensare i nostri modelli di consumo e considerare il costo ambientale delle nostre abitudini digitali. Abbiamo davvero bisogno di guardare video in alta definizione in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È una domanda difficile, ma è una domanda che dobbiamo porci. Perché, in definitiva, la sostenibilità degli IA dipende non solo dai progressi tecnologici, ma anche dalla nostra volontà collettiva di fare scelte consapevoli su come usiamo e interagiamo con queste potenti tecnologie. E quelle scelte hanno implicazioni non solo per l'ambiente, ma anche per il futuro del lavoro, per le dinamiche di potere globali e persino per il tessuto stesso delle nostre società. Parlando di dinamiche di potere globali, Feeding the Machine mette in guardia contro la crescente influenza delle grandi aziende tecnologiche. Sulla politica in materia di IA, chi controlla queste aziende controlla l'infrastruttura critica che alimenta il mondo digitale. È una situazione preoccupante. Potrebbe portare a uno scenario in cui l'IA viene utilizzata per rafforzare le disuguaglianze esistenti e concentrare il potere nelle mani di pochi. Immagino un futuro in cui l'accesso all'IA è limitato a chi se lo può permettere, creando una nuova forma di divario digitale. E non si tratta solo di accesso alla tecnologia, ma anche di chi controlla i dati. I dati sono il carburante dell'IA. E chi possiede i dati ha un enorme vantaggio. Le grandi aziende tecnologiche stanno già raccogliendo enormi quantità di dati su di noi. E questo potere potrebbe essere facilmente abusato. Assolutamente. Dobbiamo assicurarci che lo sviluppo e l'implementazione dell'IA siano guidati da principi etici e che ci siano meccanismi di responsabilità in atto. Feeding the Machine propone alcune soluzioni interessanti, come la creazione di organismi di regolamentazione indipendenti e la promozione della trasparenza nello sviluppo dell'IA. È incoraggiante vedere che ci sono persone che lavorano per garantire che l'IA sia utilizzata per il bene comune, ma la strada è lunga e ci saranno molte sfide da affrontare. Vero. E dobbiamo essere vigili e impegnarci per plasmare un futuro in cui l'IA sia uno strumento per migliorare la vita di tutti, non solo di pochi privilegiati. Prima di concludere, voglio tornare a Einar, il responsabile del data center in Islanda, di cui abbiamo parlato all'inizio. Feeding the Machine ci offre uno sguardo toccante sulla sua vita quotidiana, rivelando le pressioni e le sfide che affronta. Sì, la sua storia ci ricorda che dietro a tutta questa tecnologia ci sono persone reali con vite reali. Spesso ci concentriamo sugli aspetti tecnici dell'IA, ma è fondamentale non dimenticare l'impatto che ha sulle persone. E questo ci porta alla domanda finale che Feeding the Machine ci pone: chi beneficerà davvero dello sviluppo dell'IA e chi rischia di essere lasciato indietro? È una domanda cruciale a cui dobbiamo riflettere attentamente. Dobbiamo assicurarci che i benefici dell'IA siano condivisi equamente e che nessuno venga lasciato indietro. E questo dipende da noi. Dobbiamo essere informati, impegnarci nel dibattito pubblico e fare scelte consapevoli su come l'IA viene sviluppata e utilizzata. Assolutamente. Il futuro dell'IA non è predeterminato. Sta a noi plasmarlo in un modo che vada a beneficio di tutta l'umanità. Abbiamo coperto un sacco di terreno in questa immersione, esplorando gli intricati legami tra tecnologia, lavoro, ambiente e potere globale. E mentre ci avviciniamo alla conclusione, voglio lasciare agli ascoltatori un ultimo spunto di riflessione. Feeding the Machine ci spinge a guardare oltre la superficie, della tecnologia e confrontarci con le implicazioni sociali, etiche ed economiche dell'IA. Già, e come abbiamo visto oggi, queste implicazioni sono profonde e complesse. Non si tratta solo di algoritmi e potenza di calcolo, ma di come l'IA sta rimodellando il nostro mondo, dal modo in cui lavoriamo all'ambiente in cui viviamo, alle relazioni di potere globali. Esatto. E questo ci riporta a una domanda cruciale. Come possiamo garantire che l'IA sia una forza per il bene? Uno strumento che ci aiuta ad affrontare le sfide del nostro tempo e a creare un futuro più equo e sostenibile. Feeding the Machine offre alcuni spunti interessanti. Innanzitutto, sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo scienziati e ingegneri, ma anche esperti di etica, sociologi, economisti e rappresentanti della società civile. In pratica, un'alleanza di menti brillanti provenienti da diversi ambiti, per guidare lo sviluppo degli AI in una direzione responsabile. Proprio così. In secondo luogo, il libro evidenzia la necessità di una regolamentazione efficace, che stabilisca limiti chiari all'uso dell'IA e protegga i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Una sorta di codice etico per l'IA, che ne garantisca un utilizzo responsabile e rispettoso dei valori umani. Esattamente. Infine, Feeding the Machine ci invita a riflettere sul nostro ruolo individuale, come consumatori, cittadini e professionisti. Dobbiamo essere consapevoli delle implicazioni dell'IA, fare scelte informate e impegnarci a plasmare un futuro in cui questa tecnologia sia al servizio dell'umanità. Quindi, in sostanza, il messaggio è chiaro. L'IA non è un destino ineluttabile. Il suo futuro è nelle nostre mani e sta a noi decidere come utilizzarla per creare un mondo migliore. Esattamente. Il futuro dell'IA non è scritto nella pietra, ma è una tela bianca su cui possiamo dipingere il mondo che desideriamo. E con questo pensiero stimolante concludiamo la nostra immersione nel mondo dell'IA e del lavoro umano. Speriamo che questo viaggio vi abbia offerto spunti di riflessione e vi abbia incoraggiato a esplorare ulteriormente questo tema cruciale. Grazie per averci accompagnato in questa avventura. Continuate a farvi domande, a cercare risposte e a impegnarvi per un futuro in cui l'IA sia una forza positiva per l'umanità. A presto per una nuova puntata di The Deep Dive.